Gli archetipi dalla tua parte funzionano solo quando vi si lasciano funzionare. Quello dei due innamorati divisi, per esempio, ha senso soltanto in un contesto di repressione. Quella che in mancanza di un termine più appropriato potremmo spingerci a definire la sua essenza o la sua struttura non consiste nel fatto che due bei giovani siano attratti l'uno dall'altra, che sarebbe una situazione, ammettiamolo pure, piuttosto banale, ma nell'assunto per cui quell'amore in sé ad altro non può portarli che alla tomba. Gli ingegnosi accorgimenti cui i due ricorreranno di propria iniziativa o su suggerimento di malaccolti consiglieri per superare gli ostacoli che li dividono, il velo di Tisbe, la lucerna di Ero, le visir di Tristano, la pozione di frate Lorenzo, si risolveranno immancabilmente in trappole micidiali. Quel loro amore, in effetti, rappresentava un anelito di libertà, si contrapponeva agli obblighi imposti dalle istituzioni, dalle dinastie, dalle famiglie, con i loro sistemi d'autorità e le loro necessità di riproduzione sociale. E le istituzioni, in questo caso, hanno la maledetta tendenza a vincere sempre. Tristano e Isotta, come sanno tutti, non potranno mai vivere insieme felici e contenti, perché la cosa non sconvolgerebbe soltanto la corte del buon re Marco, ma manderebbe a patrasso l'intero sistema feudale. Non a caso, gli unici amanti divisi la cui storia può finir bene sono quelli che vivono una divisione soltanto apparente. Sono gli innamorati della commedia greca del romanzo ellenistico che alla fine delle loro molte peripezie scoprono di solito, in seguito a un'agnizione, di non essere quelli che pensavano d'essere, perché lei non è affatto un'etera, ma una fanciulla di ottima famiglia rapita in fasce, e lui non è il per di giorno che credevano tutti, ma il figlio di un ricco mercante o addirittura del re di Babilonia. Anche Nemorino, il protagonista di quella singolare variante del mito di Tristano che è le visir d'amore di Donizetti, sembra non abbia nessuna probabilità di sposare l'amata Adina, che sfarfalleggia con i sergenti e non lo guarda neanche di striscio, ma poi uno zio muore, gli lascia un mucchio di soldi e quando l'ex villico è diventato il più ricco fittavolo del paese state pur sicuri che la bella sdegnosa non se lo lascia scappare. Il senso generale di tutte queste storie è quello per cui sesso, amore e matrimonio, mettetevi nell'ordine che volete voi, non sono comunque, per così dire, valori primari, ma sono ipotesi realizzabili in seconda istanza, quando lo permettono o esigono le regole invalse della società. Chi prova a fare il furbo si risveglia in una tomba con un cadavere accanto. Questo almeno fino a qualche tempo fa. E non tantissimo tempo, La mia generazione, se ricordo bene quel che ci succedeva da giovani, è riuscita a vivere almeno le ultime manifestazioni di questo tipo d'atteggiamento. Ma adesso che ufficialmente queste pastoie sono state abolite, che nessuno in campo sentimentale e sessuale vieta più niente a nessun altro, adesso che gli esponenti di quello che il mio amico Kame chiama il sistema delle stelle ostentano in televisione i propri illeciti amori, e le mamme negli spogliatoi delle palestre si raccontano l'una all'altra con orgoglio gli exploit erotici delle figlie quattordicenni, adesso che di repressione per carità neanche si parla, e uno può dirsi d'accordo col Papa sui Pax anche se di moglie personalmente ne ha due, che senso può avere raccontare un'ennesima volta la storia di Tristano e Isotta? È una domanda, ve lo dico subito, cui io personalmente non so rispondere. Il film d'altronde non è ancora uscito e non sono neanche sicuro che quando uscirò lo andrò a vedere. Ma non so. Magari il pubblico d'oggi vivrà quella vicenda come la testimonianza di un'epoca barbara in cui una cosa tanto normale come andare a letto con chi si voleva era severamente proibita. Qualcun altro, chissà, potrà persino provare un brivido di inconfessata nostalgia per i tempi in cui per un reciproco amore negato si poteva così intensamente soffrire e morire. O magari nessuno si accorgerà di niente. Magari nessuno si accorgerà di niente perché di repressione che se ne dica ce n'è sempre in giro anche troppa e ci vuole altro che questo tipo di blando edonismo diffuso per fare dell'amore un valore vincente. Ma questi naturalmente sono discorsi da vecchi barbogi e piantiamola pure qui.